ad alta voce. Teresa Saponangelo legge Il paese di Cuccagna di Matilde Serao. Capitolo quinto. Il carnevale di Napoli. Dai primi di gennaio Napoli era stata presa da una smania di lavoro che si diffondeva da una bottega all'altra, da una casa all'altra, di strada in strada, di quartiere in quartiere, dalla regione nobile a quella popolare, con un movimento continuo, ascendente e discendente. Dagli stabilimenti, dagli opifici, usciva più forte il rumore delle seghe, delle pialle, dei martelli. Nelle botteghe, dalle porte socchiuse, nelle case si vegliava. Le più piccole, come le più grandi industrie, pareva che avessero ricevuto quasi un impulso misterioso, un soffio di vitalità novella nella loro lenta e rassegnata agonia. Nelle fabbriche di guanti la domanda era cresciuta a dismisura, specialmente per i guanti bianchi e per quelli color tortorella. Se ne fornivano le più umili botteghe di generi diversi. Nelle fabbriche dei fiori artificiali, che sostengono sempre più vittoriosamente il paragone con la produzione di Francia, si preparavano grandi quantità di rami, di cespi, di gruppi, di fasce di fiori, di piccoli e grandi mazzi, fiori vivaci, di tinte calde, quelli più delicati destinati ai cappelli e al seno delle signore, quelli più grossolani destinati all'adornamento delle case, delle botteghe, dei cavalli, delle carrozze, le rose, le camelie, le dalie, i garofani che erano i più richiesti. Presso tutti i sarti e presso tutte le sarte, il raso, il velluto, la garza, il velo si piegavano in mille fogge, di vestiti, di mantelli, di cappucci, di sciarpe. Mentre nelle botteghe da calzolaio, le orlatrici passavano 10 ore del giorno a orlare le scarpette di raso rosa, azzurro, bianco, grigio, lilla e gli stivaletti fantastici ricamati d'oro e quelli orlati di pelliccia. Ah, il lavoro che vi era sempre più forte, nelle botteghe dei dolceri, dagli umili fragalà del quartiere San Lorenzo ai gloriosi fragalà di Piazza Spirito Santo e dai gloriosi ma borghesi fragalà dello Spirito Santo agli aristocraticamente squisiti dolceri di Piazza San Ferdinando. Dovunque si andava, nei quartieri del popolo come in quelli della nobiltà, si scorgeva un movimento allegro. Una lieta fatica, un affaccendarsi rumoroso, un'attività mai cessante, un fermento diurno e notturno di tutte le forze, un'azione costante, vivace, energica di tutta una serena e laboriosa città che intende a un'opera sola, a cui si dà col cervello e col cuore, con le mani e coi piedi, adoperando la vibrazione dei suoi nervi, la vivacità del suo sangue, la potenza dei suoi muscoli a questa immensa opera unica. E dovunque si indovinava o si sapeva o saltava agli occhi o si leggeva che cosa era la grande opera per le feste del prossimo carnevale. Nient'altro che il carnevale. La grande città si era data a quell'impetuosa e gioconda fatica non per l'amore del lavoro in sé, per quel lavoro che è causa e conseguenza di benessere, che è in sé fondamento di bontà e di decoro. La grande città non si era abbandonata a quella fervente attività per uno scopo immediatamente civile, miglioramento igienico, industriale, esposizione di arte o di commercio, trasformazione di vecchi quartieri o creazione di nuovi. Era per il carnevale, soltanto per il carnevale, un carnevale decretato ufficialmente dal palazzo della prefettura e da quello del municipio. Carnevale caldeggiato da comitati, commissioni, associazioni, messo su da 1000 persone, creato e realizzato come una grande istituzione diffuso nello spirito di tutti i 500.000 abitanti, fatto rimbombare sino nelle province meridionali, avente degli echi fino a Roma, fino a Firenze, sostituendo a qualunque altra proposta, iniziativa o opera, questa del carnevale. Non altro che il carnevale sino all'entusiasmo, il carnevale sino al delirio. Ma come in fondo a tutte le allegre cose del paese di Cuccagna, vi è una vena sempre fluente di amarezza. Questo carnevale che travolgeva in buffonerie e mascherate tutte le cose e le persone più gravi della città. Questo carnevale era una pietosa cosa. Dall'autunno al gennaio, l'umido e greve scirocco aveva soffiato nelle vie napoletane, vincendo le energie della gente sana e acutizzando le morbosità degli infermi. Non poca gente straniera era mancata al solito convegno invernale. Molti lavori erano stati sospesi e quelli da cominciare non erano cominciati. Così molta gente di popolo dormiva sui gradini delle chiese, sotto il porticato di San Francesco di Paola, sotto la guglia dell'Immacolata in Piazza del Gesù. E insieme con lo scirocco aveva soffiato un gran vento di digiuno. Così il carnevale ufficiale, portato su da 1000 volontà, era destinato riuscendo a saziare almeno per 10 giorni una grande quantità di affamati, dalla orlatrice alla fioraia, dal sarto al garzone di negozio, dal venditore ambulante al piccolo commerciante. 20 giorni di carnevale, cioè 10 giorni di pane e di companatico. L'idea aveva avuto subito un grande successo. Tutti l'avevano aiutata, anche i meno facoltosi, sapendo di mettere i loro denari a buon interesse. Carnevale. Carnevale sui balconi e nelle vie, nei portoni e nelle case. Così, in quel giorno di giovedì grasso, in cui lo scirocco umido dell'inverno aveva assunto tiepidezze primaverili, la via di Toledo, dove da un capo all'altro si riversa il carnevale, nelle sue forme popolari e aristocratiche, aveva assunto il più bizzarro degli aspetti. Tutte le grandi botteghe erano chiuse, poiché i bottegai e le loro signore volevano godersi la giornata, non senza un certo timore per le loro vetrine. Tutte le insegne erano coperte di tela o di stuoie o di stuoiette. Erano anche coperti i fanali del gas. In quanto alle botteghe più modeste e più piccole, esse avevano tolto le vetrine ed eretto dei palchi di legno, dove sedevano le padrone con i loro bimbi e le loro amiche, con le loro provvigioni di coriandoli, dovendo combattere quasi faccia a faccia coi pedoni dei marciapiedi, ma pur brandendo coraggiosamente le mestole. Tutti i balconi grandi e piccoli dei primi piani erano variamente addobbati, di mussole vivaci, poco costose, messe su con 4 chiodi e con 4 spilli, con quell'amore del colore forte, molto meridionale e un po' barbaro, con quella intonazione di chiesa parata, qua di azzurro, là di rosso, di bianco, di oro, con una quantità di grosse camelie, di grosse rose, di grosse dalie che fermano queste mussole, queste telette in 1000 pieghe, dando ai balconi dove la forma di un'alcova, dove quella di uno stanzino d'attrice, dove l'aspetto di una nicchia di santi, dove infine quello di una baracchetta da fiera. Verso via Santa Brigida cominciavano gli addobbi più vistosi e più spiritosi. Certi signori svizzeri si erano fatti costruire uno chalet sopra un grande balcone e le signore vi portavano il costume in genuetto, un po' sciocco, con la grande cuffia, le trecce sulle spalle e la crocetta d'oro al collo. Subito dopo a Santa Brigida, il figlio naturale di un altissimo personaggio aveva adornato i suoi 4 balconi di un gran panneggio di velluto azzurro cupo, coperto di una rete d'argento, il che poteva figurare il firmamento o il regno della luna o il regno del mare, ma che infine riempiva di stupore il buon popolo napoletano. Un terrazzino presso il vicolo Conte di Mola era trasformato in una cucina con fornello, caldaia, casseruole e padelle, e 8 o 10 bei giovani dell'aristocrazia vi facevano da cuochi o da guatteri, col grembiale bianco e col bianco berretto. Una celebre bellissima donna che aveva trovato nella sua bellezza la fonte di tutte le sue fortune e della sua unica immensa sciagura, aveva trasformato la sua terrazzina in una casetta giapponese piena di stoffe e di arazzi, dove ella ogni tanto appariva, ravvolta nelle fluenti stoffe molli appena annodate alla cintura, coi capelli rialzati a grossi nodi lucidi, sostenuti dagli spilloni e le sopracciglia sottili arcuate in una perenne espressione di meraviglia. Ma la gente a piedi, in carrozza, passava attraverso il gran velo dei coriandoli, delle bomboniere, dei fiori che volavano, attraverso la pioggia di 1000 cartine colorate, piovute dai terzi e dai quarti piani, che, esclusi dalla battaglia dei coriandoli, si divertivano così, solitariamente. E il vocio, diventato clamore, ondeggiava sonoramente, saliva al cielo di quella dolce giornata sciroccale. Carmela, stordita dal rumore e dalla fantasmagoria di quel pomeriggio, in cui l'allegrezza napoletana prendeva proporzioni epiche, aguzzava gli occhi per non perdere di vista le carrozze a 2 cavalli che procedevano al passo, tutte bianche di gesso. Ogni tanto uno dei grandi carri appariva. Era la sirena partenopea, una immensa donna rosea, dalla criniera bionda, dalle gigantesche forme di cartone colorato, il cui corpo finiva nelle onde azzurre. Una sirena che si trascinava dietro un carro pieno di uomini travestiti da aragoste, da ostriche, da carpioni, da cefali. Era un carro che figurava una gran tartana mercantile, una nave con la sua attrezzatura e i suoi marinai vestiti di teletta a righe bianche e rosse, a righe azzurre e bianche, col berretto rosso lungo. Era un carro che figurava intorno a un gran ceppo di fiori 8 o 10 boîte à surprise, donde scattavano dei gentiluomini vestiti di raso. Era un carro dove s'erano raccolte tutte le maschere napoletane. Il Pulcinella, il Tartaglia, il Don Nicola, Columbrina, il Buffo Barilotto, il Guappo, la Vecchia e finanche la più moderna maschera del giovanotto lezioso e pretenzioso, il Don Felice Sciosciamocca. Quando questi carri passavano lentissimamente, quasi traballando sulle ruote, facendo piover coriandoli, confetti, bomboniere, scoppiavano gli applausi. La sirena suscitava scherzi e facezie un po' salate. La tartana pareva pittoresca. Le maschere napoletane suscitavano dei gridi di riconoscimento, dei dialoghi rapidi, volanti, in dialetto, delle esclamazioni da tutti i balconi, a cui quelle maschere rispondevano vivacemente. E da un capo all'altro di Toledo era un movimento solo, di ondeggiamento sui balconi, di fluttuazione nella folla della strada, intorno ai carri e alle carrozze. Carmela la sigaraia guardava. Vide passare in una carrozza dai cavalli tutti infiorati e scintillanti di ottone nei finimenti le due sorelle, Donna Concetta, quella che imprestava denari con l'interesse e a cui ella stessa doveva 34 lire da tanto tempo, arrivando ogni tanto a darle un paio di lire solo per l'interesse, e Donna Caterina, la tenitrice di gioco piccolo, presso cui ella aveva giocati tanti biglietti a un soldo, a due soldi, quando non aveva denari per giocare al lotto del governo, o quando solo quei due soldi le erano restati. Le due sorelle erano in gran gaia, pettinate con un trofeo di capelli sul culmine della testa, piene di catene d'oro, di collane pesanti, di orecchini di perle, di grossi anelli, e conservavano il loro aspetto guardingo e severo, con certe occhiate oblique e l'atto un po' sdegnoso delle labbra chiuse e tumide. Due uomini le accompagnavano, in perfetta tenuta di operai indomenicati, zazzera lucida, cappelletto sull'orecchio, giacchetta nera e sigaro spento all'angolo della bocca. E i quattro personaggi muti, gravi, si guardavano ogni tanto, con l'aria seriamente compiaciuta di persone soddisfatte, crollando il capo ogni tanto per far cadere i coriandoli dai capelli o dalle falde dei cappelli, sorridendo a coloro che li avevano buttati, guardando a destra e a sinistra con una certa fierezza di popolani arricchiti. Carmela si morsicò le labbra, vedendo passare le due serene e feroci accumulatrici del denaro altrui. Ma subito dopo, la sua solita parola le salì dal cuore alle labbra. Non importa. Ma un carro assai originale discendeva dall'alto di Toledo, suscitando una gran risata colossale a destra e a sinistra, giù e su. Era un gran letto borghese, con la coltre imbottita di bambagina e foderata di cotonina rosso vivo, come si usa a Napoli. Un letto con un baldacchino aperto, dove sulla parete erano attaccate le immaginette della Madonna e i santarelli protettori. Nel letto, dalle lenzuola bianche rimboccate, stavano coricate due persone con due enormi teste di cartone, raffiguranti un vecchione col berretto da notte e una vecchiona con la cuffia. Due vecchioni leziosi, smorfiosi, che facevano mille cenni con le grosse teste, che tiravano a sé la coltre con quel moto egoistico e freddoloso dei vecchi, che si offrivano del tabacco, facendosi dei saluti col capo, starnutendo, dimenandosi, salutando la gente dei balconi, ringraziando alle fitte mestolate di coriandoli che ricevevano, scuotendo le coltri, restando incogniti sotto il mistero del cartone. Mettendo in pubblico quella caricatura familiare, quell'angolo di stanza da letto, senza che nessuno trovasse la cosa troppo arrischiata, tanto l'idea di dormire all'aria aperta è naturale ai meridionali e tanto la vita intima è vita pubblica nel caldo e bonario paese. Che tutti ridevano. Rideva financo la gente nella bottega di Don Crescenzo, dopo la piazza della Carità, all'angolo del vicolo del Nunzio. La bottega di Don Crescenzio era veramente il bancolotto numero 117, una bottega chiusa ordinariamente dal pomeriggio del sabato sino al martedì, in cui la ressa cominciava dal giovedì sino all'una pomeridiana del sabato. Don Crescenzo, il tenitore del bancolotto, un bell'uomo con la barba castana, vi lavorava con due giovani suoi, che viceversa erano un vecchietto settantenne, curvo, mezzo cieco, sempre col naso sul registro delle giocate, che si faceva ripetere tre volte i numeri per non sbagliare e li scriveva lentamente, lentamente, e uno scialbo tipo di nessuna età, con una faccia dalle linee indecise, una barba dal colore indefinito, uno di quei bizzarri esseri che si trovano a fare da testimoni agli uscieri, dai mezzani al Monte di Pietà, dai dispensatori di foglietti volanti e da sensali di stanze mobiliate. Don Crescenzo troneggiava sui due giovani, ma in quel giovedì egli aveva trasformato la sua bottega, elevandovi una tribuna, drappeggiandola di panno bianco e cremisi e invitandovi la sua miglior clientela. Sì, erano tutti là, quelli che ogni settimana venivano a deporre il miglior frutto della loro vita, un denaro guadagnato a stento o strappato all'economia domestica o trovato a furia di spedienti, prima maliziosi, poi audaci e finalmente vergognosi. Tutti lì, nel bancolotto, trasformato in tribuna carnevalesca, il marchese di Formosa, Don Carlo Cavalcanti, con la sua aria di gran signore, e il dottor Trifari, rosso di capelli, di faccia, di barba, turgido come se scoppiasse e con lo sguardo di un azzurro falso. E il professore Colaneri, che in quel giorno, più che mai, manifestava l'indelebile carattere del sacerdote che non ha voluto più saperne della Chiesa. E Ninetto Costa, che aveva lasciato il circolo, e Don Gennaro Parascandolo, attirato da un desiderio prepotente, invincibile, e altri 8 o 10, un giudice del tribunale, un maggiordomo di casa principesca, un pittore di santi, malaticcio, il barbiere Cozzolino, gran cabalista, perfino, in un cantuccio della bottega per terra, il lustrino Michele, sciancato, zoppo, gobbo, con le 1000 rughe della fisionomia di vecchio, pieno di una passione irrefrenabile, e accanto a lui Gaetano, il tagliatore di guanti, più smunto, più pallido, con gli occhi ardenti e la scontentezza, l'inquietudine che gli traspariva dal volto a ogni moto. I clienti di Don Crescenzo, nella bottega cara alla loro passione, celebravano il carnevale anch'essi ed essendosi quotati per comperare dei sacchi di coriandoli, ne lanciavano anche loro ai carri, alle carrozze e più ai passanti, dove ogni tanto salutavano una conoscenza. Nessuno si meravigliava di veder gente tanto diversa: un marchese, un agente di cambio, un giudice del tribunale, un medico, un professore e finanche un operaio riuniti lì. Carnevale! Carnevale! La dolce follia popolare aveva assalito tutti i cervelli e la tiepida ora e gli smaglianti colori e la fantasia dei 100, dei 1000 veicoli passanti e il clamore delle 100.000 persone avevano domato anche quelli che bruciavano di un'altra febbre respinta per quell'ora in un cantuccio dell'anima. Oramai i più tranquilli commettevano delle follie e coloro che stavano sui carri, sulle prime semplicemente allegri, adesso parevano tanti indemoniati. In una carrozza era passato Raffaele, detto Farfariello, l'eterno fidanzato dell'appassionata Carmela. Egli e i compagni suoi, per farsi vedere meglio, avevano pensato di sedersi sul soffietto della carrozza e salutavano la folla agitando dei fazzoletti di seta bianca in punta alle mazze come bandiere. Ahimè, egli non la vide. La ragazza che lo aspettava da tante ore all'angolo del vico d'afflitto ed ella che aveva gridato, agitato le braccia, agitato una pezzuola bianca, restò stordita, mormorando fra sé per consolarsi: «Non importa, non importa». Ma ancora restò lì, inchiodata, in quel crescendo di frenesia carnevalesca. Sotto il balcone dove era la bella donnina vestita da giapponese, una folla più fitta si assiepava. E allora costei, eccitata, aveva cominciato a far cadere una pioggia di confetti, a manate, a scatole, quasi ne avesse un deposito in casa, prendendoli dalle mani della cameriera che glieli porgeva. Un urlio di monelli, di popolani entusiasmati saliva al cielo, mentre ella da sopra, seria seria, ma con una fiamma rossa sui pomelli, buttava giù disperatamente confetti, dolci, piccole bomboniere. Sul suo balcone parato di velluto azzurro con la rete di argento, il figlio dell'altissimo personaggio aveva combinato lo scherzo di attaccare una bottiglia di champagne o un pasticcio di caccia o una grossa bomboniera o una lunga canna e di abbassarli al livello delle mani tese dalla folla, sollevandoli, facendoli danzare fra gli urli di desiderio della gente di sotto e le mani alte e le bocche aperte, fino a che un grande schiamazzo di trionfo annunziava che un fortunato aveva strappato la bottiglia o la bomboniera o il pasticcio della nuova cuccagna. La canna era ritirata e i giovanotti, che prendevano un gusto matto a quello scherzo, vi attaccavano qualche altra cosa da mangiare o da bere: una bottiglia di vino rosso, una forma di cacio ravvolta in una carta d'argento, un sacchetto di confetti, e il gioco ricominciava fra un tumulto inaudito con la circolazione sospesa. Quelli dei carri, oramai, rifornite le provisioni, mentre la sera si avvicinava col passo sempre più rallentato, ballavano e cantavano e buttavano roba, dimenandosi come anime dannate. Fu in questo punto acutissimo della giornata che un nuovo carro sbucò da un vicolo di Toledo, fantastico, bizzarro, giunto in ritardo e trascinato dai cavalli a rilento. Rappresentava l'officina chimico-filosofica dove lo sconfortato vecchio Faust bestemmia malinconicamente e gelidamente su tutte le cose umane. Una camera bruna con due scansie di libracci, con un fornello e una storta d'alchimista. Sullo strano carro un vecchio curvo con una zimarra di velluto nero e una lunga barba bianco-giallastra camminava tremolando e gittando alla folla dei balconi e della strada delle bomboniere a foggia di libri, di storte, di alambicchi, di fornelli, dove qua e là si vedeva l'immagine di Mefisto, ma che erano riempite di buonissimi confetti. Allora una punta di fantastico si mescolò alla frenesia del carnevale e il carro del mago parve un'apparizione più sovrannaturale che reale. Il vecchio, che le donne dai balconi ridendo chiamavano il diavolo, crollava il capo canuto coperto da una berretta nera e lanciava giù roba, magicamente cavandola dal sottosuolo del carro. E ogni tanto, fra il clamore del popolo, una voce sopracuta, dirigendosi al decrepito mago, gridava «I numeri! I numeri! I numeri!» E quando, giunto a San Ferdinando, il carro di Faust voltò per rifare la strada fatta, sin sopra Toledo, fu vista una cosa curiosissima, indescrivibile. Cavandoli da un alambicco di rame, insieme alle bomboniere, il vecchio mago buttava alla folla e ai balconi dei fogliolini lunghi e stretti di carta gialla, su cui la gente cominciò a buttarsi furiosamente, e un grido precedeva, accompagnava, seguiva il carro di Faust: «Gli storni! Gli storni! Gli storni!» Per realizzare una generosità nuova, fastosa, bizzarra e cara al popolo, il vecchio buttava dei polizzini di lotto da due o tre numeri, già giocati per il prossimo sabato, giocati a due soldi l'uno. Un biglietto, che è detto storno, e di cui egli magnificamente gittava al popolo delle centinaia, ridendo nella sua folta barba bianca, scordandosi che era vecchio, per rizzare il capo con una gaiezza feroce. Oh, che lungo grido dovunque nella via, per le finestre, per le logge, per i balconi, sino al cielo che si faceva bianco nel tramonto. Che lunghissimo grido di desiderio ed entusiasmo di tutta una popolazione che alzava le mani e le braccia come se dovesse abbracciare la terra promessa, che si gittava a terra, si calpestava per strappare furiosamente un polizzino del lotto, dove era una ipotetica promessa di 10 lire o di 200 lire di vincita. Oh, che furore giocondo di uomini, di donne, di fanciulli, poveri e ricchi, bisognosi e agiati. Che impeto invincibile che rispettava per una sacra paura il carro del mago, ma che gli faceva un trionfo, una gloria di acclamazione da un capo all'altro della via Toledo, quando egli aveva buttato alla folla 10.000 polizzini, quando già egli era scomparso, senza che ognuno sapesse dire come e dove. Teresa Saponangelo ha letto Il paese di Cuccagna di Matilde Serao.